Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi capita di ascoltare ormai da settimane anche colleghi di altre regioni, di altre istituzioni, invocare la riapertura universale. Apriamo domani, apriamo subito, apriamo tutto. Bene, il mio invito a quelli che si stanno perdendo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la domanda di lavoro che c'è, ovviamente, ed è drammatica, senza decidere niente. Allora, chi vuole aprire domani mattina, lo faccia. Apra, se ne assuma la responsabilità. Però facciamola finita con questo chiacchiericcio che è diventato davvero insopportabile. E lo sapete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non fa mai giri di parole, va proprio diritto al punto. E in questo caso l'avete sentito, diciamo, molto critico nei confronti dei colleghi delle altre regioni, degli altri presidenti di regione che stanno scalpitando da giorni per poter riaprire molto più velocemente di quanto preveda il governo e l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Proprio ieri abbiamo parlato con il Presidente della Regione Liguria Toti, fra i governatori, cosiddetti presidenti di regioni, insomma, italiani, che dicono, insomma, cerchiamo di passare dai controlli alla fiducia nei confronti dei cittadini e soprattutto facciamo ripartire l'economia. Non tutti sono d'accordo, però ieri c'è stata una conferenza delle regioni presieduta da Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, e i due, diciamo, punti essenziali che sono venuti fuori, ne parlavamo appunto con Toti ieri, sono: da una parte riaperture l'11 maggio di negozi al dettaglio, per esempio riaperture anticipate, e poi dal 18 maggio un decreto del Presidente del Consiglio che dia delle autonomie decisionali alle varie regioni per le successive aperture, anche se vedevo poco fa che Toti ha detto prevedo una riapertura complessiva per il 18 maggio. Però poi ci addentreremo ulteriormente in questo argomento. E sapete che oggi, a proposito di riaperture e di riapertura alla vita di persone che vanno, che tutti, insomma, riprendiamo ad andare in giro, grande polemica che ha fatto il giro dei social questa immagine, questi video dei Navigli di Milano, classico luogo di movida soprattutto verso la primavera estate, che erano affollati di gente. Ira del sindaco di Milano Sala, che poi questa sera si è recato proprio lì sui Navigli insieme al capo dei vigili urbani, e ha detto: adesso presidieremo, faremo molti più controlli, perché qui o le persone si comportano come si deve, altrimenti chiudo tutto. Ne parleremo di questo con l'assessora di Milano, al Comune di Milano, al commercio, Tajani. Poi, fra le molte cose, cerchiamo anche di parlare d'altro, anche se tutto poi è condizionato dalla pandemia di coronavirus. Parleremo di cinema, degli Oscar, del cinema italiano, i Davide Donatello. Stasera la cerimonia, anche se sarà un po' particolare, perché candidati e premiati saranno tutti collegati in videoconferenza. Insomma, possiamo partire. Vi ricordo il numero per i vostri sms e whatsapp, per i vostri messaggi, che è sempre 349-238-6666, 349-238-6666, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Poi c'è il Twitter durante la diretta di Effetto Notte, altrimenti durante il giorno, quando volete. L'altra è Robby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. Il coronavirus in Italia, superate le 30.000 vittime, ma la curva dei contagi e dei decessi cala ancora. Le accelerazioni nella fase 2. Bolzano decide di aprire da domani negozi, parrucchieri e centri estetici, ma è scontro col governo. Il presidente della Campania, De Luca, si scaglia contro i colleghi delle altre regioni e dice: sulla corsa alle riaperture fanno demagogia. Le polemiche sui Navigli affollati a Milano. Il sindaco del capoluogo si infuria: basta folla o chiudo, dice. Navigli oggi presidiati dalle forze dell'ordine, ne parleremo Effetto Notte con l'assessore al commercio Tajani. E al sud, la spiaggia di Mondello in Sicilia gremita di bagnanti. Eurogruppo a Bruxelles ha raggiunto l'accordo sul MES, il fondo salva stati. La pandemia di Covid-19, sono oltre 270.000 i morti provocati da coronavirus nel mondo, stando a un conteggio dell'agenzia France Press. Scuola, esami per tutti, tutti ammessi alla maturità, e varrà di più il percorso degli anni passati. Cinema, l'insolita eccezionale cerimonia per i Davide Donatello al tempo del coronavirus. Partiamo quindi dai dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia, come sempre forniti appunto ogni giorno. Sono 87.961 i malati di coronavirus nel nostro paese, in calo rispetto a ieri di 1.663, superata però la soglia delle 30.000 vittime, ma la curva dei contagi e dei decessi cala ancora. Continua il calo dei contagi e dei ricoveri in Italia. La Protezione Civile segnala oltre 1.600 positivi in meno, i decessi sono 243, oltre 2.700 i dimessi e i guariti. Ancora in salita invece i casi in Lombardia, dove si rilevano oltre 600 nuovi contagi. Ma in prospettiva stiamo andando verso un numero di casi molto basso, un po' in tutte le regioni, inclusa gradualmente la Lombardia. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Strumenti indispensabili della fase 2, la app per tracciare i contatti e i tamponi. E c'è un impegno delle regioni, continua Brusaferro, per superare la carenza di reagenti per l'analisi molecolare dei campioni prelevati. Ancora incertezze sulle vacanze fuori regione. Il primo impatto della fase 2, iniziata il 4 maggio, si potrà misurare solo la prossima settimana, quando alla luce della situazione epidemiologica potranno essere valutati anche mobilità e spostamenti tra regioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torna a intervenire per un richiamo alla cautela l'Istituto Superiore di Sanità. Dice: sì, siamo nella fase 2, ma il virus non è cambiato, violare le regole può essere molto pericoloso. Preoccupano poi le immagini di Milano, furibondo il sindaco Sala, come vi dicevo, per la folla lungo i Navigli e la movida che è ripresa, mentre altre regioni fanno pressione per riaprire in autonomia. E con un fine settimana di sole alle porte, l'avvertenza è sempre la stessa: non sono consentiti assembramenti. Regioni, quindi, dicevo, sempre più in ordine sparso. Bolzano dispone con una legge la riapertura dei negozi da domani, durissimi i presidenti di regione di Veneto e Campania, mentre a Milano, come dicevamo, a infuriarsi è il sindaco, che ribadisce ancora una volta: non è tempo di abbassare la guardia. La provincia autonoma di Bolzano accelera sulla fase 2 e dispone la riapertura dei negozi da sabato e da lunedì anche quella di parrucchieri, bar, ristoranti e musei. Per settimane Roma non ci ha ascoltato e per questo abbiamo deciso di intraprendere un nostro percorso legislativo autonomo, spiega il governatore altoatesino Compascher. Il governo risponde impugnando le parti della legge in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro. L'autonomia regionale è garantita, ma nel rispetto dei valori costituzionali come quello alla salute, ammonisce il ministro Boccia, che ribadisce la linea dell'esecutivo: aperture differenziate per regione dal 18 maggio sulla base delle valutazioni del Ministero della Salute. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga annuncia però che da lunedì riaprirà i negozi al dettaglio. Quello della Campania De Luca accusa invece i suoi colleghi che spingono sulle riaperture di fare demagogia. La conferenza delle regioni intanto ha deciso di posticipare al 1 agosto l'avvio dei saldi estivi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi della polemica su Milano ne parliamo con l'assessora al commercio Cristina Tajani. Via libera del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, all'uso di mascherine fai da te. Per l'uso destinato alla popolazione, ha detto, si possono utilizzare anche quelle confezionate in proprio, come indicano i video dei Center for Disease Control. Fronte comune intanto dei paesi europei sulle app di tracciamento, anche in vista delle riaperture dei confini interni. Un nuovo studio dell'ospedale San Raffaele di Milano mostra l'efficacia del farmaco antiartrite Anikinra per bloccare l'infiammazione causata dal Covid. Italia intanto sempre più presente nella gara al vaccino, con un progetto al computer di 3 università. E lockdown, inutile ripeterlo, ha aggravato moltissimo la crisi economica e così aumenta in maniera esponenziale il numero delle persone che si sono rivolte al banco dei pegni. Gli oggetti dati in pegno sono, come sempre, per la maggior parte oro e gioielli, ma un balzo del 30% c'è stato nelle richieste, anche per cifre piccole. Si attende in questo quadro ancora il nuovo decreto, si chiamerà decreto legge rilancio, e per ora è una pioggia di proposte, oltre 700 pagine. Ancora aperto il cantiere del decreto aprile, poi diventato DL maggio, che si chiamerà DL rilancio. Dopo il Cura Italia e DL liquidità, l'esecutivo lavora ancora sul provvedimento da 55 miliardi e le proposte arrivate dai vari ministeri a Palazzo Chigi sono raccolte in un documento di 766 pagine. Alcune ipotesi, vedi il tanto atteso reddito di emergenza, non figurano affatto perché è in attesa di definizione. Ma tra le numerose ipotesi al vaglio c'è sul fronte imprese l'ampliamento dello stop ai licenziamenti per 5 mesi, poi c'è la proroga della CID Covid di 12 settimane. settimane ancora l'ipotesi di estensione della platea bonus di 600 euro che sale a 1000 a maggio. E poi si pensa anche a un fondo di 1 miliardo per l'emergenza filiere in crisi. Per tutti, tetto massimo alle mascherine di 1,50 euro e rimborso dell'abbonamento ai pendolari. Sul fronte scuole e famiglie, 370 milioni per la riapertura alla polizia per garantire la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e lo svolgimento del prossimo anno scolastico, anche per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica. Ci sono anche 150 milioni al fondo famiglia per i centri estivi e l'ipotesi di lavoro agile se compatibile nel privato, anche senza accordi individuali per genitori di minori under 14 fino a fine emergenza. E da qui l'elenco delle ipotesi al setaccio è ancora lungo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo, per affrontare la crisi economica si muove l'Europa. Questa volta c'è l'accordo tra i paesi europei. L'Eurogruppo ha trovato un accordo sul MES, il famoso fondo salva stati. La linea di credito da 240 miliardi sarà operativa dal 1 giugno. Il presidente Centeno dell'Eurogruppo spiega che tutti potranno prendere prestiti fino al 2% del prodotto interno lordo con scadenza 10 anni e tasso di interesse poco sopra lo 0,1% annuo per coprire i costi sanitari. Allo State of Union a Firenze, la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, fa appello a una risposta di bilancio comune europea contro la crisi e afferma che dobbiamo prepararci come Unione a fronteggiare la fase successiva, spostando l'attenzione al favorire la ripresa. Poi nel corso di questa puntata capiremo meglio i dettagli di questo accordo raggiunto oggi. Europa, dove si fa sempre più pesante, tra l'altro, il bilancio dei morti da coronavirus. Nel Regno Unito è balzato oltre 36.000 sulla base di una nuova elaborazione con l'aggiunta di decessi la cui causa era stata registrata come dubbia. In Spagna, Madrid, la città più colpita, resta il lockdown, quindi non apre. Madrid, il governo spagnolo ha respinto la richiesta di passare alla de-escalation in corso nel resto del paese, cioè di cominciare ad aprire anche a Madrid. Non passerà alla fase 2 neanche la Catalogna e sono oltre 270.000 i morti provocati da coronavirus nel mondo, stando a un conteggio dell'agenzia France Press. Ripercussioni economiche, oltre che sanitarie, si fanno sentire duramente anche negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, a causa del coronavirus, in un mese hanno perso 20 milioni e 500 mila posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione, secondo i dati resi noti dal Dipartimento del Lavoro, in aprile è salito al record del 14,7%, più del triplo dal 4,4% registrato nel mese di marzo, ma meno delle previsioni attese dagli economisti. Per questo i mercati finanziari hanno reagito positivamente alla notizia. Il crollo dell'occupazione era totalmente atteso, ha detto Donald Trump, intervistato da Fox News. Nessuna sorpresa, quei posti di lavoro torneranno e torneranno presto, secondo il presidente americano. Ma la maxi perdita di posti di lavoro aumenta la pressione su Trump, che è indietro nei sondaggi sul candidato democratico Joe Biden a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di novembre. Negli Stati Uniti gli effetti delle perdite di lavoro sono più pesanti rispetto alla gran parte delle nazioni sviluppate. Questo perché 160 milioni di americani hanno la copertura assicurativa sanitaria legata allo stipendio, fatto che rende ancora più drammatico l'impatto della pandemia. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia per parlare di scuola, la vera scommessa per la scuola italiana sarà la riapertura di settembre con la bozza di protocollo proposta dal Ministero dell'Istruzione su cui si sta lavorando a tutti i livelli, da quello scientifico al mondo dei sindacati che chiedono sicurezza. Ma in attesa di sapere se e come inizieranno le lezioni, se si entrerà a scaglionati e anche con le mascherine, dal Ministero dell'Istruzione è arrivata la parola definitiva su valutazioni ed esami di questo anno scolastico 2019-2020. Ci saranno i voti che certificheranno il lavoro svolto anche online, presenti anche le insufficienze che saranno recuperate a settembre. Gli esami di terza media saranno svolti con una prova orale online e un elaborato, tutti ammessi alla maturità con i crediti dell'anno che valgono fino a 22 crediti, ma non ci sarà il 6 politico. E siamo arrivati fin qui, prima settimana di fase 2 per l'Italia che riparte, sono le cronache che via via abbiamo raccontato in questi giorni con le voci e le storie raccolte in strada. E sentiamo allora appunto l'anticipo di Euroreportage della nostra Maria Luisa Pezzali. Mi sembra una cosa fantastica, ma io amo il caffè e mi piace prenderlo al bar, quindi mi sembra già un passo avanti questo. Dobbiamo accontentarci dei piccoli passi avanti che questo virus ci consente. Dal caffè consumato in strada ai guanti e alle mascherine sui mezzi pubblici, gli italiani sono alle prese con le regole e le abitudini della cosiddetta nuova normalità. La fase 2, iniziata lunedì 4 maggio, dopo il lockdown che ha fermato il paese per quasi due mesi, sta mettendo alla prova soprattutto le grandi città. Milano in testa, al centro dell'area più colpita dal coronavirus. Insieme alle colleghe Rosanna Magnano, Valentina Furlanetto, Anna Marino e Cristina Carpinelli abbiamo raccolto le voci dell'Italia che riparte, dai trasporti al turismo mancato, dalla gestione familiare alla spesa solidale, fino alla riapertura a metà dei bar e dei ristoranti in attesa della ripartenza vera e propria. Noi abbiamo altre due persone che lavorano con noi, in questo momento sono in cassa integrazione. Se io lavoro con un cliente alla volta non potranno mai più rientrare a lavorare. Paura, pessimismo, ma anche voglia di ricominciare e di rivalsa, con storie in grado di diventare un simbolo. Ci siamo messi a consegnare dapprima solo a Milano, dopodiché Interland, Monza e Brianza, adesso spediamo in tutta Italia, è una media di 600-700 consegne al giorno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questa è un'anticipazione, appunto, che poi sentirete il reportage al completo domenica mattina alle 8:15. E poi passiamo allo... ricordiamo la festa della mamma. Sabato, regalare fiori e piante domenica per la festa della mamma può aiutare a salvare 200.000 posti di lavoro in un settore dove 27.000 imprese stanno scontando le misure messe in atto per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Questo è quanto afferma la Coldiretti in vista del primo appuntamento da celebrare nel rispetto delle regole sanitarie dopo il lungo periodo di lockdown. E siamo allo sport, dove il dilemma ancora da chiarire è come si concluderà il campionato. Rispunta l'ipotesi di una ripresa. Si va verso una soluzione, il via libera ancora non c'è, ma si va verso una buona direzione. Parole pronunciate dalla sottosegretaria alla salute Sandra Zampa nelle ore in cui il calcio italiano aspetta il verdetto sul protocollo medico-scientifico che dal 18 maggio deve rendere possibile il ritorno agli allenamenti di squadra per poi provare la ripartenza del campionato. Due settimane di ritiro clausura per calciatori e staff che potrebbero poi portare a un via libera. Il lavoro sotto traccia prosegue, mentre oggi sono tornati a correre in campo i giocatori dell'Inter una volta avuto l'esito negativo per tutti dai test. Prime fatiche anche per il Verona, mentre i sampdoriani sono rimasti a casa dopo l'annuncio ieri delle 4 positività. Il calcio che riparte sarà diverso, l'IFAB ha dato l'ok temporaneo alle 5 sostituzioni e alla sospensione del VAR, decideranno le singole federazioni. In Germania il protocollo prevede divieto di abbracci, applausi e sputi in campo, al gol ci si potrà complimentare con tocchi di gomito in punta di piede. Le mascherine si potranno togliere, ma solo dal riscaldamento in poi. La strada per la normalità è ancora lunga, ma il pallone prova a darsi nuove regole. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, che tra le regole ci sia il divieto di sputare in campo, io è una cosa che speravo da secoli e secoli, speravo che fosse una roba scontata, diciamo, ma almeno col coronavirus, diciamo, evidentemente si eviterà di questo gesto così un po' senza senso. E direi di passare alla musica. Another day they don't end, another ship going out. Another day of anger. Qualcuno è stato ispirato dalla quarantena. Questo qualcuno in particolare che state sentendo è Bob Dylan, il leggendario cantautore, premio Pulitzer per la poesia, Nobel per la letteratura. Si prepara a sfornare un nuovo album di brani inediti, il primo in 8 anni. L'annuncio è arrivato in parallelo all'uscita di questa nuova canzone che sentite, False Prophet. Falso profeta, la terzo nuovo disco di Zecca in un mese da quando è cominciato il lockdown. Rough and Rowdy Ways, composto da 10 tracce, questo album uscirà il 19 giugno in formato doppio CD, doppio vinile e digitale. Dylan, che festeggerà 79 anni il prossimo 24 maggio, se non un profeta, come appunto lui si dice, sono un falso profeta, resta da quasi 60 anni un punto di riferimento nella scena musicale globale, avendo venduto 125 milioni di dischi in tutto il mondo, mentre i manoscritti delle sue canzoni continuano a rivalutarsi alle aste. E con questo ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre, anche nell'ultima puntata della settimana, per poi riprendere lunedì, ricchissima di informazioni, di aggiornamenti in diretta, degli ospiti che tra poco approfondiranno vari temi, e poi i vostri commenti attraverso pagina Facebook di Effetto Notte o gli sms e WhatsApp al 349-238-6666. Chiede Henry, Roby, ma mi chiedo, la gente porta l'oro al banco dei pegni, come abbiamo detto, perché i comproro dice sono chiusi o sono aperti? Io penso che in questo momento siano chiusi, però non mi sono informata. Mentre Enzo, lo leggo perché è un messaggio molto carino, dice: la ringrazio per le informazioni esaustive e scrupolose, molto generoso Enzo, dice, che fornisce come pure i benefici effetti della sua voce per il sistema nervoso. E se faccio questo effetto, insomma, sono ben contenta. E infatti questa è la vostra trasmissione antistress, in modo che pur parlando spesso di cose pesanti in questi 2 mesi e mezzo, moltissimo di coronavirus, quasi esclusivamente, di tutti gli argomenti attinenti, insomma, sicuramente il mio obiettivo è quello di non creare ansia, ma di informare qualche volta anche con un po' di leggerezza. Allora, siamo al quinto giorno di questa fase 2, come stanno andando le cose con queste graduali riaperture, questi graduali allentamenti, quindi sia delle attività che anche della nostra vita, delle nostre libertà? Diverse regioni scalpitano, ieri c'è stata la conferenza delle regioni presieduta da Stefano Bonaccini, presidente della regione Reggio Emilia, e sono emerse due richieste chiare delle regioni nel loro complesso, poi con qualcuno invece che si distingue, cioè che si possano fare già delle riaperture di negozi, per esempio al dettaglio l'11 maggio, e che poi dal 18 maggio ci sia un nuovo decreto del Presidente del Consiglio che dia ulteriori autonomie alle regioni. E su questo c'era ieri proprio ospite qui a Fettonotte Giovanni Toti, che è presidente della Liguria. Fare sentire un passaggio dell'intervista a Toti. Noi abbiamo all'unanimità, quindi non c'è un tema politico, centrodestra, centrosinistra, abbiamo chiesto al governo, uno, di anticipare all'11 una serie di aperture che sono discriminate fortemente. Basti pensare che chi vende vestiti per adulti è chiuso, chi vende vestiti per bambini è aperto, le librerie sono aperte, i negozi di arredo casa non lo sono. E poi dal 17 tornare all'equilibrio costituzionale, cioè ai poteri condivisi tra il governo e enti locali che possono regolare il loro territorio sulla base di linee guida governative. Quando aspettate quindi la risposta al massimo? Noi ce l'aspettiamo nei prossimi giorni, e io temo che se non arriverà una risposta molte regioni, come è già successo, scatteranno una serie di provvedimenti individuali della legittimità consentita, e a quel punto sarà difficile reggere il sistema paese senza che tutti gli altri si accodino. Quindi io, se fossi il governo, lo dico, come dire, nell'interesse di un corretto rapporto istituzionale, comincerei a definire una via concordata con le regioni, perché bracci di ferro e le fughe in avanti e indietro non servono onestamente a nessuno. Poi poco fa vi dicevo, in realtà Toti ha detto sono orientato a fare una riapertura generalizzata il 18 maggio, mentre avete sentito l'attacco di De Luca anche all'inizio, no? Che ce l'ha con i suoi colleghi e dice: mi sembra demagogia questo aprire, chiudere, accelerare eccetera, noi vogliamo aprire in sicurezza per aprire per sempre, ha detto De Luca, presidente della regione Campania, mentre Bolzano dispone con una legge la riapertura dei negozi domani e lunedì di parrucchieri, bar, ristoranti e musei. C'era stata nei giorni scorsi la fuga in avanti della Calabria, della presidente Iole Santelli. E poi intanto il Veneto di Zaia dice: siamo in un'area di incertezza paurosa sulle ulteriori riaperture. Musumeci, presidente della regione Sicilia, ha detto: io sono in trincea tra il partito dell'apriamo e il partito del chiudiamo e cerca una via di mezzo. Mentre il presidente del Piemonte Cirio ha detto oggi in videoconferenza: serve prudenza e responsabilità. Intanto arriva il monito dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice: la fase 2 è molto delicata, è importante che il paese riparta, ma il virus non ha cambiato né identità né caratteristiche, perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe facilitare la circolazione, ha detto il presidente dell'IS Brusaferro. E che cosa succede? Che oggi in Sicilia, nella bellissima spiaggia di Mondello vicino Palermo, la più amata dei palermitani, questa mattina si sono riversati in tanti a prendere la tintarella, visto che anche sembra una giornata piuttosto estiva. E ricordo che stare in spiaggia e prendere il sole non sarebbe consentito, nonostante tutto il litorale era pieno, e molti anche senza mascherina e senza rispetto della distanza. Però quello che ha fatto maggiormente discutere sono state le immagini di Milano, della zona cosiddetta della Movida, quella dei Navigli, e a questo proposito, insomma, tante polemiche, è diventata anche una polemica proprio politica con tante reazioni. Sentiamo il sindaco Sala, il sindaco di Milano, molto arrabbiato oggi in un video. Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso, io sono sempre il primo a farlo, però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi. Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose. Milano ha bisogno di tornare a lavorare. Non è un pezzo, non è una voglia riaprire, è una necessità. E io sto e starò sempre dalla parte di quelli che vanno a lavorare, non a divertirsi, per portare a casa quanto necessario. E non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò. Non è un penultimatum, è un ultimatum. O le cose cambiano oggi o io domani chiudo i navigli, chiudo lo sport, e poi lo spiegate voi ai baristi. E a questo punto allora coinvolgo l'assessora al commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani. Bentornata, assessora. Buonasera, bentrovati. Buonasera. Senta, quindi dicevo, è diventata proprio anche una polemica politica, ha fatto il giro del web queste immagini, questo video dei navigli, molti attacchi anche dal centrodestra, che si sa appunto avversario del sindaco Sala, però anche il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha detto: colpisce la differenza tra l'ordine e la responsabilità con cui hanno riaperto diverse attività commerciali, servendo migliaia di persone in sicurezza, e l'affollamento incosciente e dannoso dei navigli. Come commenta lei, assessore Tajani, questa situazione, queste immagini dei navigli? Beh, non ci stancheremo mai di ripetere che in questa fase il rigore nei comportamenti individuali è assolutamente necessario e indispensabile. E credo peraltro che quella che il sindaco poi ha scherzosamente chiamato la ramanzina di questa mattina, di cui abbiamo sentito qualche pezzo, in realtà ha funzionato, perché chiunque abbia potuto passare per i navigli questa sera ha visto una situazione assolutamente, diciamo, rientrata alla normalità così particolare di questi giorni. Io credo che l'episodio di ieri, diciamo, non sia rappresentativo dei comportamenti generalizzati dei milanesi, che, come abbiamo ripetuto anche nei giorni scorsi, sono stati sempre molto rigorosi nell'attenersi alle regole. È anche giusto però dire, diciamo, per onestà di dibattito, sia politico che di dibattito pubblico, quello che tra i cittadini si sta svolgendo in questi giorni e in queste settimane, che se ci sono le condizioni per delle parziali riaperture, è anche normale, diciamo, aspettarsi un ritorno delle persone e cittadini nelle strade. Questo vale soprattutto nelle città che, come sappiamo, hanno una densità di popolazione per chilometro quadro molto più alta rispetto ad altre aree del paese. Quindi il tema torna ad essere un tema anche di natura sanitaria, di politiche, diciamo, sanitarie, non soltanto di comportamenti individuali. Noi oggi, soprattutto in Lombardia, abbiamo la necessità di capire dai dati che le autorità sanitarie ci danno, diciamo, tutti i giorni, se ci sono le condizioni per un graduale, diciamo, e parziale ritorno alla normalità. Si parlava prima nel vostro dibattito, nella vostra trasmissione, del calendario, diciamo, delle riaperture. L'indicazione di queste calendario di queste riaperture non può che essere fatto sulla base di criteri, diciamo, epidemiologici e sanitari. Per questo in passato noi siamo tornati a chiedere, diciamo, maggior chiarezza sui dati. Sappiamo che anche oggi il 50% dei nuovi contagi italiani viene dalla Lombardia, quindi sarebbe utile capire dove sono stati rilevati questi nuovi positivi, se nelle abitazioni, negli ospedali o nell'RSA. Questa richiesta, diciamo, di chiarezza rispetto ai dati serve anche per programmare in maniera più coscienziosa, diciamo, e meno casuale, il calendario delle riaperture. Quindi è giusto che la politica e le autorità sanitarie si parlino questo. Assessora Tajani, tra l'altro poco fa vedevo un'agenzia che riportava delle dichiarazioni del presidente della Lombardia, Tilio Fontana, Sky TG24, che ha detto: prima di prendere qualsiasi decisione dovremmo cercare di valutare i dati che ci saranno tra alcuni giorni. Ricordiamo che Fontana fino a qualche giorno fa era un po' per le riaperture anche lui, no? A un certo punto aveva parlato della libertà in chiave lombarda, ha detto: dopo una settimana o 10 giorni dall'inizio di questa parziale riapertura si potranno valutare i dati, se le cose non fossero peggiorate si potrà valutare l'ipotesi di riaprire, altrimenti bisognerà andare molto più cauti. E questo va nella direzione di quanto dicevo io, quindi sono contenta che il presidente Fontana in qualche modo abbia, diciamo, un po' rivisto la posizione aperturista dei giorni scorsi. È necessario farlo con gradualità, ma soprattutto sulla base di conoscenze, diciamo, epidemiologiche e anche più circostanziate di quelle che oggi abbiamo, perché i dati a nostra disposizione, questo mette in difficoltà anche le città, diciamo, gli amministratori locali che non hanno competenze sul sistema sanitario, stanno procedendo con prudenza, ma sarebbe utile sapere dove sono i nuovi contagi, se sono circoscritti alla dimensione sociosanitaria, diciamo, alle famiglie che sono rimaste chiuse tante settimane in lockdown. E quindi questo, assessora Tajani, lo aspettate dalla regione, questi dati, queste informazioni? E sicuramente per quanto riguarda la Lombardia sì, è ovviamente, diciamo, un'indicazione stringente da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del governo, non può che accompagnare le valutazioni che le regioni stanno facendo nella loro autonomia. Comunque, insomma, immagino che allora, diciamo che il rischio è di passare dagli eccessivi controlli, forse, no, prima della fase 2, a pochi controlli magari in questa fase, visto che appunto il sindaco Sala poi ha postato una foto in serata, le diceva è tornato con il capo dei vigili urbani della polizia locale, ha detto faremo molti più controlli. Senta, a livello di commercio, visto che appunto lei è l'assessore al commercio, gli esercenti, per esempio sui Navigli, no, bar, ristoranti, sappiamo che è pieno di localini, proprio perché appunto lì si svolge la movida milanese, almeno nei tempi normali, e si sono comportati comunque in modo legale, legittimo, quello che potevano fornire. Hanno fatto quello che la legge, il DPCM, gli consentiva di fare, cioè attività di asporto. È chiaro che non si può controllare ogni angolo della città, quindi è necessario che i cittadini siano responsabili e evitino di consumare le bevande o il cibo sul luogo, come anche il DPCM indica. Quindi è un bilanciamento, diciamo, molto delicato, perché la legge consente alcune attività nel momento in cui sono consentite, nessuno può impedire a un cittadino di andarsi a rifornire di cibo o di bevande, è necessario che si utilizzi buon senso. Diciamo, assessora, che hanno un problema forse strutturale i Navigli, nel senso che sono stretti e lunghi. E quindi se si va sui Navigli, chiaramente poi a un certo punto si fa l'ingorgo. Questo è il rischio. Per questo, appunto, per questo il richiamo, diciamo, a comportamenti e anche a giudizi equilibrati in questo momento è più che mai necessario, perché i cittadini, diciamo, spesso inconsapevolmente generano situazioni di assembramento. È necessario essere tutti molto consapevoli, diciamo, e molto prudenti. Siamo proprio in un sentiero stretto e delicato. L'esito di questo percorso dipende da tanti fattori. Uno di questi, ovviamente, è la responsabilità individuale, chiaro, non è l'unico. In particolare per questo primo fine settimana, diciamo, di libertà vigilata, no? di fughe fuori città, di, appunto, oppure ai laghi, oppure nei parchi o anche nei Navigli. Quindi mi raccomando, niente assembramenti, perché poi si ritorna da capo, ci si chiude tutti in casa. Assessora Cristina Tajani, io la ringrazio e le auguro allora buon lavoro. Anche a lei, a presto. Grazie, a presto. Così ci aggiorniamo ulteriormente sulla situazione, sperando, insomma, che anche chi ama la movida, come tutti del resto, se vogliamo stare un po' in allegria e in leggerezza, però si capisce che non è il momento giusto questo. Mentre un ascoltatore mi scrive, siccome avevo più volte commentato sul fatto di sputare in campo da parte dei calciatori, e io sono anni che dico, ma che sputano a fare, che è un gesto veramente volgare e inutile, dice sputare in campo, che adesso diventa una regola per riprendere le partite, i campionati, dice sputare in campo lo trovi, rivolto a me, senza senso, perché non hai mai giocato a calcio e per l'appunto lo puoi capire. Io ho giocato moltissimo a calcio e non ho mai sputato. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E sono qui come sempre la sera dalle 21 alle 22 per raccontarvi un po' il quadro della giornata, ricostruirlo con le notizie più importanti d'Italia e dall'estero, e poi approfittando della presenza degli ospiti per affrontare e approfondire tanti argomenti. Poi ci sono i vostri commenti e i vostri sms, pagina Facebook di Effetto Notte o 349-238-6666. Un ascoltatore scherza sulla polemica di prima sugli sputi in campo eccetera, ma facendo qualsiasi sport uno può evitare di sputare sinceramente, e dice: quando le partite si disputano allora può succedere, va bene, possiamo scherzare così. Mentre un altro ascoltatore dice: stai facendo la milanesina laboriosa confindustriosa, basta. Cioè, soltanto perché parlavo con l'assessora al commercio di Milano, dicevamo che la movida milanese sui Navigli in questo momento va controllata, perché tra l'altro i Navigli sono stretti stretti, pieni di localini, ed è difficile non creare ingorgo e mancanza di distanziamento sociale. Se questo significa fare la milanesina laboriosa, confindustriosa eccetera, non so, ognuno ha il proprio punto di vista. Dopodiché invece un ascoltatore dice: volevo invitarti a Portati Cinese, ma mi sa che non è il caso, anche Portati Cinese è a rischio assembramento, quindi cerchiamo di avere ancora un po' di pazienza, perché purtroppo, come ha ricordato anche l'Istituto Superiore di Sanità, il virus non è battuto né in Italia né altrove, e quindi purtroppo per tutti noi e malgrado noi bisogna agire con la massima cautela, la massima prudenza. Oh, su questo invece voglio adesso salutare il nostro Sergio Nava. Caro Sergio. Ciao Roberta. Mentre vi ricordo, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure sms WhatsApp al 349-238-6666. Concentriamoci con Sergio Nava su un tema cruciale per affrontare in Europa la grave, gravissima crisi economica causata dal lockdown, che è stato necessario per contenere la pandemia di Covid-19. Dicevo, argomento cruciale, le misure che i vari paesi dell'Unione intendono mettere in campo per evitare il tracollo dell'economia, in particolare per l'Italia insieme alla Grecia. L'Italia insieme alla Grecia è il paese che rischia di più appunto il tracollo. Oggi c'è stato l'atteso vertice a Bruxelles dell'Eurogruppo, durante il quale è stato raggiunto, Sergio, un accordo sul famoso, fatidico, famigerato, a seconda dei punti di vista, MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità, o fondo salva stati, che poi ha innescato tutta una polemica all'interno del governo, tra governo e opposizione eccetera eccetera. Ma partiamo dall'inizio. Intanto ricorda brevissimamente, Sergio, in modo molto chiaro, che cos'è il MES e che tipo di accordo è stato raggiunto oggi a Bruxelles. Il fondo salva stati, diciamo, nasce, è l'evoluzione di uno strumento, di un fondo che ha le origini nella crisi del 2009 e che appunto ha in qualche modo fornito assistenza a quegli stati che rischiavano il default, come è stato il caso della Grecia, o a quegli stati il cui sistema bancario stava collassando, come è stato il caso della Spagna o del Portogallo o dell'Irlanda anche. Lo ha fatto, e qui vengono alla luce amari ricordi, con condizionalità precise. Tutti ricordano la troica, la ben nota troica, che per anni è andata a Atene, che alla fine ha dato il via libera affinché Atene poi potesse tornare sui mercati. Ora, arriviamo invece alla questione di oggi. Questo MES, questa linea pandemica del MES, e forse è bene chiarirlo una volta per tutte, è una linea effettivamente molto particolare, perché di fatto è come se io, Roberta, tu avessi grosse difficoltà di salute, la tua economia, le tue finanze personali avessero, insomma, fossero un po' così, un po' giù. Non possiamo fare dicessi, il caso sull'esempio su di te, Sergio? Ma facciamo il caso su chi vogliamo, però non vorrei portare male, però ti dicessi: Roberta, sì, io ti presto 36.000 euro, me li ridai in 10 anni con un interesse dello 0,1%, a condizione, solo con la condizione, che tu li usi per curarti, per la mia salute, ok? Esatto, quindi tu lo dico questo perché tu poco fa ce ne aveva le polemiche anche interne che ci sono state in Italia e che ci sono tuttora. Mentre il PD, che è uno dei due maggiori partiti della maggioranza di governo, ha detto: bene, dobbiamo assolutamente sfruttarli questi soldi e che arrivano immediatamente senza perdere tempo, il Movimento 5 Stelle è ancora sulle barricate a dire: no, pensiamo ai recovery fund, così possiamo fare a meno del MES. Perché sì, sia il Movimento 5 Stelle sia il centrodestra, esclusa Forza Italia, diciamo Salvini e Meloni, pensano che il MES invece sia una specie di cappio che poi verrà stretto e ci chiederanno sudore e lacrime, insomma, per restituire il prestito. Allora, il 5 Stelle hanno una posizione un po' più sfumata perché giustamente, devo dire, dicono lavoriamo però su questo fondo da 1.500 miliardi per la ripresa, perché effettivamente sono 240 miliardi quelli del MES, più altri 300 che arriverebbero dalla Cassa Integrazione Europea e dai fondi, dei prestiti alle piccole e medie imprese da parte della BEI, quindi una potenziale della Banca 540 degli investimenti miliardi. Europea. Esatto, però insomma, e su questo hanno ragione, serve di più, ok? Mentre non si capisce oggettivamente più la posizione dell'opposizione, parlo in particolare della Lega, perché effettivamente, come spiegavo prima, questa assenza di condizionalità di fatto, e per questo ho fatto questo esempio poco fa con te, calandolo proprio nel concreto, quando ti presto 36 miliardi su 10 anni a un tasso dello 0,1% e tu hai bisogno di soldi, sinceramente in questo momento sarebbe molto complicato sarebbe complicato una posizione italiana che dicesse no, non li voglio. Sarebbe effettivamente complicata. Premesso questo, che l'Europa debba ora, con la Commissione che sta ritardando di settimana in settimana, muoversi a varare questo fondo da 1.500 miliardi, Fondo Europeo per la Ripresa, e lo debba fare alla svelta, legandolo, come poi si è deciso, al nuovo bilancio multiannuale da 7 anni europeo, su questo non ci piove, perché una potenza da 540 miliardi complessivi di fronte a un'eurozona che è il cui PIL, la cui economia sta tracollando, come ha dimostrato la stessa Commissione europea in settimana, 540 miliardi sono effettivamente pochi. Però intanto la possibilità di avere già da giugno, di poter attivare già da giugno una linea di credito da 36 miliardi su ripagabili in 10 anni con un tasso dello 0,1%, sinceramente è inspiegabile il dire no. E perché, torniamo ancora una volta indietro, Roberta, effettivamente all'inizio l'Olanda e i paesi rigoristi volevano porre delle condizionalità più stringenti su questo MES, su questa linea pandemica, volevano legarli, diciamo, a delle condizioni di sostenibilità dei conti pubblici e sostenibilità finanziaria. Ora non ci sono più, se non appunto la condizionalità di spendere tutti questi soldi nella cura, nella prevenzione sanitaria dei costi legati alla pandemia, e in futuro, quando questa, diciamo, crisi passerà, tornare su un sentiero di sostenibilità dei conti pubblici. Ma questi 36-37 miliardi di fatto non ci sono condizionalità, e penso che sinceramente che in questo momento di grave crisi nazionale fare polemica politica sul MES risulti abbastanza fuori luogo. Comunque, poi gli altri, ci sono altri strumenti, no, che a cui accennavi, Sergio, nel senso che questo è prima un primo strumento che quindi, diciamo, arriverebbe più velocemente rispetto ai recovery fund e ai soldi della Banca Europea degli Investimenti, altri strumenti, insomma, Sergio. Sì. Allora, anche qui facciamo un po' il punto. La BEI sui 200 miliardi che dovrebbe poi di potenziali prestiti alle PMI pare stia in questi giorni comunque finalizzando i regolamenti, e anche questo entro il 1° giugno dovrebbe poi partire. Questo darebbe ulteriore ossigeno alle piccole e medie imprese italiane ed europee. Ci sono un po' più di problemi sui 100 miliardi per la Cassa Integrazione Europea, problemi legati alle varie costituzioni. Qui entreremo in una ginepraio normativo. In ginepraio. Sergio, ma per dire, quindi in questo momento, con questo accordo che è stato raggiunto sul MES, quali sono i soldi, gli strumenti che serviranno all'Italia, quindi all'Europa, per carità, in generale, ma in particolare è stato confermato e ribadito in questi giorni che il nostro paese è quello che pagherà il prezzo più pesante per questa crisi economica, no? Quindi le cose che immediatamente daranno un po' di respiro e sollievo all'economia italiana? In questo momento, se tutto come ormai la strada è spianata, va bene, dal 1° giugno l'Italia può attivare la sua linea di credito pandemica presso il Fondo Salva Stati, lo abbiamo detto, circa 36-37 miliardi di euro in prestiti, con una maturità di 10 anni. Dovrebbero, sempre a 1 giugno dovrebbe poi entrare in funzione questo strumento di 200 miliardi generali complessivi della BEI per le piccole e medie imprese europee. Poi chiaramente lì si vedrà dopo quanto potenzialmente potranno avere le nostre piccole e medie imprese, però insomma, facendo i debiti e proporzioni si tratta anche lì di diversi miliardi. Sulla cassa integrazione europea bisogna sperare che ci sia un'accelerazione effettivamente, che non si vada oltre giugno, però su questo appunto c'è qualche problema normativo in più. E poi c'è il grande punto di domanda che abbiamo citato anche prima, cioè il Fondo Europeo per la Ripresa. Allora, qui la Commissione Europea doveva fare la sua proposta questa settimana, non l'ha fatta. Avrebbe dovuto farla la settimana prossima, ma ci sono voci che potrebbe rinviarla ulteriormente. Oggi il Premier Conte ha detto fate presto, muoviamoci, perché se continuiamo a rinviare si rischia di arrivare a questo Fondo Europeo per la Ripresa quando diventa veramente troppo tardi. Perché lì il problema è fondamentalmente legarlo sotto forma anche di garanzie al prossimo bilancio pluriennale europeo. Sono circa 1.000 miliardi, di fatto raddoppiandolo, portandolo a 2.000 miliardi teorici, in modo da poter avere una garanzia per poi raccogliere denaro sui mercati usando questi 1.000 miliardi, allora, aggiuntivi, Sergio, come garanzia. Diciamo che avevo qui la calcolatrice, ma già me l'ho persa. Comunque, diciamo, una questione molto articolata, molto complessa. Speriamo che però si arrivi appunto a misure concrete e in breve tempo, come dicevi, già dal 1 giugno, accedere a questa linea di credito del MES, perché appunto morde fortissimo la crisi. Non aggiungerei altro, Sergio, sì, perché non vorrei che ci confondessimo ulteriormente, sono tanti dati e tante esperienze. Sì, prego. No, senza dati, sul Fondo Europeo per la Ripresa, attenzione, potrebbe arrivare dall'anno prossimo e qui l'Italia spinge affinché nel caso di un'approvazione già nell'estate si possa attivare un chiamiamolo pure ponte per poter già anticipare denaro quest'anno. Questo fondo diciamolo pure, è la chiave di volta. Beh, il MES è importante, ma senza questo fondo la risposta europea sarebbe molto molto molto quindi monca. Ci sono ancora dei passaggi necessari e su questo ci aggiorneremo. Assolutamente. Grazie Sergio Nava. Ciao Sergio. Grazie a te. Ciao. Ciao. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Vedo una dichiarazione di poco fa del Presidente della Repubblica Mattarella, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sempre Roberto Giordano con voi, che dice: per superare la crisi bisogna sognare col cinema. Il cinema, come tanti grandi maestri italiani ci hanno insegnato, dice Mattarella, è l'arte del sogno, un sogno che si realizza ogni volta concretamente con la collaborazione di tutta una filiera di professionalità, attori, registi, tecnici, sceneggiatori, pittori, scenografi, costumisti, musicisti e tanti altri, e che genera a livello industriale un notevole importante indotto per ricostruire il nostro paese dopo la drammatica epidemia. Sarà necessario recuperare ispirazioni e quindi tornare a sognare e a far sognare. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella questa sera in una lettera a Piera De Tassis, che è la Presidente dell'Accademia del Cinema Premi David di Donatello. È stata letta su Rai 1 da Carlo Conte, inizio cerimonia di questa sera dei David di Donatello. I Premi David di Donatello, 58esima edizione, che come saprete sono gli Oscar del cinema italiano. Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Pinocchio, dai, di qualcosa. Babbo! Svegliatevi! Mi è nato un figlio! Così, da un giorno all'altro? Da un giorno all'altro, da un minuto all'altro. Guarda, Pinocchio, guarda. 1 e 2. Se fai come me, fra 2 o 3 giorni già puoi camminare da... Pinocchio! Pinocchio, che è uno dei film candidati come miglior film per questa edizione dei premi David Donatello, che sono davvero eccezionali nella loro organizzazione, vero Franco D'Assisi? Ricordo il nostro Franco D'Assisi, tutti i sabati alle 18.05 la Rosa Purpurea, il nostro esperto di cinema. Caro Franco. Ciao, ciao Roberta, un saluto a tutti. Guarda, sì, sono veramente dei David particolari, perché a parte che se andiamo avanti di questo passo finiamo alle 3 di notte, perché ogni categoria viene presentata abbastanza ampiamente, e almeno per quanto riguarda le attrici non protagonisti, che sono state le uniche assegnate finora, hanno anche parlato tutte 5, quindi temo per la lunghezza. Ma detto questo, è sicuramente un'occasione speciale. Sono stati rimandati di un mese, sono fatti via Skype praticamente, via via collegamenti video con i telefonini e i computer, però insomma era importante in questo momento in cui il cinema sta soffrendo tantissimo dire che il cinema c'è, si premia e che il cinema italiano ha fatto tante belle cose nella stagione, tra l'altro è una stagione che stava andando molto bene per il cinema italiano, davvero molto bene, prima che arrivasse questa maledetta epidemia. È difficile dirti in questo momento di più perché, come ti dicevo, hanno appena cominciato. Quali sono i film candidati, Franco? Guarda, l'incetta, diciamo così, di candidature sono stati Il Traditore di Bellocchio con 18 nomination, che proprio in questo istante si è portato a casa il premio per la migliore sceneggiatura originale. E poi Pinocchio e Il Primo Re con 15 candidature e Martin Eden con 11 candidature. Questi sono stati un po' quelli che hanno preso tutto. Poi chiaramente ci sono tanti film, magari più piccoli, che sono andati forti in alcune categorie. Chiaramente qui la serata si svilupperà e capiremo soprattutto sulle categorie più importanti. Certo, perché adesso si parla ancora, Franco, di candidature, ovviamente tante candidature, poi bisognerà vedere chi vince. Cosa diventa premio. Però ecco, è proprio importante battere un colpo in questo momento e sperare, per esempio, che con le arene estive possa riaprirsi anche in parte in sicurezza tutto un sistema cinema che ci vede, insomma, veramente come dire, dilaniati, così distanti dal grande schermo, che poi per noi chiamiamo il cinema, insomma, il posto migliore del mondo. Ma tu dici che sarà possibile davvero che si riaprano tanti cinema all'aperto, che per me sono una cosa bellissima, me li ricordo sfumati quando ero piccola. Sì. È sicuramente Roberto, la cosa sulla quale stanno puntando molto le categorie professionali del cinema, soprattutto gli esercenti che si trovano in questo momento in ginocchio, perché comunque all'aperto d'estate sarà più facile tenere le distanze, sarà più facile riuscire a organizzare dei grandi spazi con le distanze di sicurezza, quindi si potrà provare, e pare che insomma il tentativo delle organizzazioni di categoria sia proprio quello di convincere la politica a fare qualcosa, forse addirittura qualcosa potrebbe essere annunciato in queste ore. Vedremo, staremo a vedere, sarebbe sicuramente un bel segnale proprio anche più morale che economico, se vogliamo, no? Perché poi i film in quella sede ci stanno una sera sola, no? Però comunque sarebbe un bel modo di dire siamo forse pronti a ricominciare. Chiaramente poi per il chiuso ci vorrà ancora tempo. Franco, allora ci hai citato i film candidati con maggior candidature per il premio Davide Donatello. Hai detto che le attrici non protagoniste hanno già avuto il premio? Sì, Valeria Golino, miglior attrice non protagonista per 5, è il numero perfetto. Valeria Golino, che tra l'altro è anche candidata come miglior attrice protagonista per tutto il mio folle amore di Salvatore. Quindi insomma ha cominciato bene, chissà che non faccia una doppietta. E poi è arrivato questo premio alla sceneggiatura originale, al Traditore di Marco Bellocchio, anche questo è uno dei film, il film con più nomination, pensiamo per esempio alle nomination come miglior film, miglior attore, eccetera eccetera, quindi è un film che potrebbe raccogliere molto. Franco, un passaggio, una clip del Traditore. Faccio i nomi, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa: chi deve morire prima, lei o io? Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta. Il più famoso dei pentiti, no? Buscetta, questo è lui il protagonista del Traditore, Franco D'Assisi. Secondo te quale film, le tue previsioni, hai voglia di fare una previsione su chi potrebbe vincere come miglior film tra quelli che sono i candidati? Ti dico, più che una previsione, ti dico un parere personale, diciamo, quello che mi piacerebbe potesse accadere. Io ho amato molto Martin Eden di Pietro Marcello e lo vedo sinceramente come miglior film e probabilmente anche come miglior regia, perché è riuscito a dare un taglio a questa storia di 100 anni fa. Di Jack London, tra l'altro, no? Il romanzo, però in salsa napoletana. In un'epoca che non è un'epoca, metà anni 50, metà anni 70, ha fatto un lavoro straordinario, secondo me, di riscrittura, ed è proprio così che bisognerebbe affrontare i grandi classici, secondo me, oggi nel 2020. E poi gli attori, beh, sicuramente, come dire, Pierfrancesco Favino l'abbiamo appena sentito nel Traditore, e se ci mettiamo anche a Mamet, che però è uscito a gennaio, quindi rientra nella categoria dell'anno dopo, è il cavallo, come dire, di razza di questo momento. Però attenzione anche a Luca Marinelli di Martin Eden, ad esempio. Allora, e quindi vedremo un po', insomma, che vinca il migliore, naturalmente la migliore. Grazie Franco D'Assisi, ricordiamo sabato, quindi domani alle 18:05 con la sua Rosa Purpurea. Grazie Franco. E replica alle 17 di domenica per chi se la fosse persa. Buon cinema per quello ciao, che si può. Ciao Franco. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. non ti chiedo più Paolo Corazzoni Trevimeteo come sarà il tempo fuori dalla finestra, guardandolo fuori dalla finestra, siamo fuori però ci mi raccomando siamo. Con cautela, chiaro? Ecco, con cautela, brava lei, peraltro che primavera, qua si parla quasi d'estate, estate. Questa fine settimana, 26 gradi oggi, appunto, sì. Ma guarda, domani toccheremo anche 27-28 e domenica si replica, tra l'altro domenica sarà di quella giornata addirittura afose, te figurati, quindi davvero ci piombiamo quasi in estate e settimana prossima al sud toccheremo per la prima volta i 30 gradi di stagione, ma solo al sud, perché in realtà da lunedì invece al nord attacca a piovere. E lo sapevo io. Mi spiace per te, ma lunedì prossimo sarà una giornata per il nord difficile, con piogge anche forti e netto calo delle temperature. Italia divisa in due settimana prossima. Bene, quindi quando eravamo chiusi in casa, sole a gogo, estate anticipata, e adesso vabbè, settimana prossima ci aspettiamo. Come sei, anche tu, mamma. Non mi accontento mai, mai. Brava, vabbè, grazie Paolo Corazzon. Buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo. In attesa di vincere ci sentiamo tra pochissimo.